A più di un mese dall'inizio del lockdown sono diverse le iniziative a sostegno di chi sta vivendo particolari difficoltà e di chi è escluso. L'abbiamo visto in particolare per quanto riguarda l'autorganizzazione in diversi modi e diversi punti della città. In questo piccolo contributo audio partiamo invece da un appello rivolto alle istituzioni in maniera trasversale da diverse realtà, tra cui associazioni e alcuni centri sociali, per non lasciare sole le persone senza fissa dimora. E ne parliamo con Valentina Calderone di A Buon Diritto. Ciao, sì, grazie. In effetti il tema dei senza fissa dimora già non era popolare, prima di questa pandemia e sicuramente non è diventato popolare adesso. E, insieme a molte associazioni, come dicevi, abbiamo fatto due lettere, in realtà non una, chiedendo al Comune di Roma, di occuparsi in maniera seria di questo tema, quindi dallo screening sanitario per queste persone che comunque a casa non possono stare, persone che nei giorni scorsi, insomma, continua a succedere, sono comunque state multate, durante controlli di polizia perché appunto erano fuori dalla loro dimora, anche se sono senza fissa dimora. Quindi screening sanitario per queste persone, la possibilità di capire, diciamo così, e di prevenire il fatto che queste persone si possano ammalare, e quindi eventualmente predisporre dei posti in cui queste persone possano curarsi e trascorrere la quarantena. E comunque in generale, diciamo, provare a fare un lavoro di accoglienza e di cura di queste persone. Purtroppo dall'amministrazione non abbiamo avuto neanche una risposta e visto che questa situazione non accenna a cambiare, insomma, in breve tempo, ecco, inizia sempre a diventare più preoccupante il fatto che queste persone iniziano anche ad avere problemi relativi all'approvvigionamento di beni alimentari, se prima le mense erano aperte adesso non lo sono, quindi tutto il lavoro dei volontari che vanno a consegnare pasti, per esempio, è ancora più impegnativo. Queste persone che magari si sostenevano anche grazie a quei pochi soldi che i passanti gli davano quando i passanti ancora c'erano e adesso si trovano in una condizione veramente ancora più disagiata. Tra l'altro denunciate che già a monte non erano sufficienti posti per le persone senza fissa dimora all'interno del circuito cittadino. Vuoi parlarcene in maniera più approfondita? Sì, assolutamente. Quella dell'assenza di posti in accoglienza per le persone che ne hanno bisogno è un problema cronico del Comune di Roma. Si stima, insomma, che più o meno nel nostro territorio siano 8.000 le persone senza fissa dimora, ed è comunque una stima al ribasso. Ecco, le uniche cose che vengono fatte, diciamo così, quello di effettuare il piano freddo ogni anno, quindi aumentare di un po' i posti durante i mesi più freddi, cosa che però non è sufficiente, non è sufficiente nelle situazioni ordinarie, figuriamoci in una situazione come questa. Quando, insomma, una delle cose che l'assessore a mezzo stampa, l'assessore alle politiche sociali del comune ha risposto, non credo su nostra sollecitazione, ma comunque un paio di giorni dopo l'invio della nostra prima lettera, è stato che avrebbe creato subito 500 posti in più nell'accoglienza ordinaria e 100 posti ricavati, diciamo così, dall'ex circuito SPRAR, per far fare la quarantena alle persone che avessero avuto bisogno di isolamento sanitario. Ecco, a tutt'oggi noi in realtà di questa disponibilità aggiuntiva di posti non ne sappiamo molto e diciamo appunto con i numeri che ci siamo detti prima, quindi 8.000 persone variamente in emergenza abitativa, ecco, sicuramente questa non è possibile che sia definita come una soluzione. Tra i soggetti per i quali le reclamate diritti ci sono anche migranti e richiedenti asilo, per i quali la situazione è per così dire congelata. Sì, è congelata perché il comune ha bloccato le nuove accoglienze, quindi da una parte ha prorogato quelle in essere, però le nuove persone che hanno bisogno di essere accolti nel sistema appunto per richiedenti asilo, per rifugiati, titolari di protezione internazionale è bloccato e questo sta ponendo un grande problema. Tra l'altro, nonostante, diciamo così, le questure dovrebbero avere l'obbligo di prendere le richieste di asilo e quindi di formalizzare, insomma, le domande di asilo, molte questure si stanno comportando come al solito in maniera difforme e ci sono varie situazioni diverse nelle diverse questure ufficiali. Immigrazione in Italia. Quindi E come dire, lì è una questione anche che riguarda e si intreccia moltissimo con la precarietà lavorativa e abitativa, quindi magari tante persone che stavano iniziando adesso un percorso di autonomia, che non so, avevano delle borse lavoro, per esempio, oppure avevano iniziato a prendersi una stanza in affitto, o comunque diciamo avevano delle situazioni che stavano costruendo, ma che non erano ancora completamente solide. Ecco, sono sicuramente le prime persone che rischiano e che sono in difficoltà in questo momento, tanto come c'è una situazione che si intreccia anche molto di più, se vogliamo vedere dal punto di vista egoistico, no, con la situazione globale in Italia, che è il problema delle persone che non verranno a fare la stagione per la raccolta nei campi, e quindi questo sta ponendo una serie di difficoltà a tutti quegli agricoltori che avrebbero bisogno di forza lavoro e che in questo momento non ce l'hanno. E anche qui con delle reti nazionali sono state fatte varie richieste di intervenire regolarizzando invece le persone che sono già nel nostro paese, che non hanno i documenti per permettere a queste persone di avere un regolare contratto e di poter lavorare in agricoltura. Anche qui ovviamente questa emergenza è arrivata in un momento in cui già la situazione dei migranti era particolarmente grave, perché stiamo scontando l'onda lunga degli effetti disastrosi del decreto sicurezza, che ha abolito la protezione umanitaria, e quindi comunque ci trovavamo già prima in una situazione in cui molte persone che prima avevano un documento e riuscivano a stare in Italia regolarmente, adesso sono comunque in Italia, sono prive di documenti e quindi sicuramente, diciamo così, erano persone che probabilmente nella maggior parte dei casi si sostentavano con dei lavori in nero, e in questo momento sono totalmente privi di ogni tipo di tutela. Tanto che, solo per fare un esempio, la possibilità di accedere a questi buoni spesa del Comune di Roma con i fondi che sono stati stanziati a livello nazionale esclude completamente la possibilità alle persone prive di documento di accedere a questa misura. Quindi le categorie, no, è lo stesso discorso per i senza fissa dimora. Le categorie che erano più fragili prima, sono diventate ancora più fragili in questa emergenza. Come dicevamo in apertura, in questi giorni si stanno mobilitando in molti per aiutare, dicevamo, chi non ha diritto a dei sostegni e in parte anche chi ha sì diritto a dei sostegni, ma questi sostegni sono assolutamente insufficienti. E, riusciamo ad avere anche una misura di quanto poi però chi ha realmente bisogno si fa avanti, supera quello che a volte è anche un po' il tabù di mostrare le proprie difficoltà, se non addirittura situazioni di indigenza. Ecco, sì, la dimensione della mancanza di cibo, devo dire che è una delle cose che ci sta più preoccupando in questo momento, nel senso che la povertà sicuramente non era un tema sconosciuto, però adesso tanti di noi si stanno rendendo conto di quanto delle situazioni, diciamo così, che prima erano precarie, sicuramente difficili, ma che no, tanti lavori informali, senza pensare in questo momento, no, contratti, lavoro in nero, contratti schifosi, insomma, non è questo il punto. Il punto è che tante persone che riuscivano in qualche modo ad avere di che mangiare adesso non ce l'hanno più. E noi stiamo ricevendo tantissime telefonate di persone che proprio non sanno come fare. I buoni spesa per chi l'ha fatto non sono arrivati ancora, nella maggior parte dei casi non sono arrivati ancora i sussidi previsti, ovviamente solo per chi poteva accedere a quel tipo di sussidio. E quindi il tema del cibo in questo momento è veramente un tema importante. Noi non abbiamo una chiara, insomma, indicazione di quante siano le persone, ovviamente. Io spero che qualcuno, insomma, sono state fatte delle stime, però spero che veramente le energie vengano concentrate su questo. Un'associazione che si chiama BIPOP Ho fatto una mappa di tutta una serie di servizi, inclusi anche quelle reti che si stanno organizzando per raccogliere cibo e portarlo alle famiglie che hanno bisogno. Si chiama La Roma Buona e si trovano un bel po' di informazioni, quindi invito tutti a, diciamo così, informarsi e cercare di capire quello che avviene nel proprio territorio, così da poter dare le informazioni alle persone che magari dovessero chiedere supporto. E di stare con le antenne dritte, diciamo così, e cercare di capire se intorno, no, al proprio ambiente, alle proprie case, insomma, c'è qualcuno che può avere bisogno, perché veramente il fatto di poter dare un supporto a chi in questo momento non sa cosa mangiare è fondamentale, ed è fondamentale appunto che, diciamo così, che si superi anche la vergogna, no, e il fatto magari di non aver mai dovuto prima chiedere aiuto a nessuno e adesso invece sentirsi in difficoltà, il fatto magari di poter dare delle corrette informazioni e di far capire che insomma non c'è niente di male in questo momento, ma in nessun momento in generale a chiedere aiuto, insomma, è importante. E quindi niente, invito tutti quelli che ancora ce la fanno a donare qualcosa, in qualunque posto, a qualunque, insomma, presidio che di questo si sta occupando, e invece per chi non ce la fa, ecco, non vergogniamoci. Dobbiamo stare insieme anche per questo, insomma, penso che sia una cosa davvero importante in questo momento. In questi giorni ci stiamo domandando un po' tutte e tutti come sarà il post-lockdown, ci stiamo chiedendo cosa cambierà, quali problemi affronteremo e in parte stiamo cominciando a delineare alcuni scenari. A fronte di una politica di sostegno già carente, in particolare quella a favore dei senza fissa dimora, tu come prevedi che sarà la situazione una volta tornati alla cosiddetta normalità? Beh, in effetti è un po' difficile definire che cosa sarà la normalità, nel senso che il supposto ritorno alla normalità sicuramente non avverrà di punto in bianco, quindi sarà una cosa molto graduale che prevederà una serie di step per me inimmaginabili in questo momento. Quindi penso sia a tutti quelli che, diciamo così, vivevano di un'economia informale, anche magari facendo lavori che prevedevano, no, un contatto con le persone, andare a casa delle persone, non so, a fare piccole riparazioni, piuttosto che no, tutta una serie di condizioni che permettevano di vivere la città e le relazioni in maniera molto, molto differente. E per quanto riguarda le senza fissa dimora, come dire, mi sembra che diciamo così, tutto quello che è successo ha semplicemente svelato ancora di più quali siano le disuguaglianze, le miopie, no? Che ci sono state in questi anni. Io penso a tutte le categorie che veramente sono state assolutamente non considerate. Penso al grandissimo tema della salute mentale per le persone che già soffrivano magari di disturbi psichici, e per quelle che invece, diciamo così, non ne soffrivano, ma si sono resi conto in questo momento di che cosa no, voglia dire fare i conti, no, con una condizione di costrizione particolare. Penso a come è stata gestita malissimo tutta la questione dei detenuti nelle carceri, delle loro famiglie, il tema delle persone con disabilità, insomma. No, anche come tutto il tema dell'infanzia, del diritto all'istruzione, di che cosa voglia dire, diciamo così, un presidio, no, un presidio educativo, ma anche di comunità, come dovrebbe essere la scuola. Quindi sta sicuramente svelando tutta una serie di problemi che molti di noi conoscevano già, ma li stanno rendendo molto più evidenti probabilmente, e non so. Effettivamente, diciamo così, quanto siano preparati i nostri governanti a vari livelli a far fronte e a far pensiero in realtà, no, di queste situazioni. La cosa che poi emerge sempre è che alla fine ci sono una serie di reti no, cittadine fatte da persone di tutte le età, di tutte le estrazioni, che in momenti del genere si rimboccano le maniche e cercano di fare quello che possono. E questo non basta, ovviamente, questo non è sufficiente, e ovviamente, diciamo così, quello che noi pensiamo è che Tutto quello che viene fatto in questo modo e viene rivendicato deve essere anche, no, una presa di posizione per far vedere, no, al pubblico e alle istituzioni come si dovrebbero affrontare un certo tipo di questioni e renderle visibili. Ecco, l'unica cosa che spero è quindi che, diciamo così, queste condizioni escano un po' di più dall'invisibilità in cui sono state confinate e che invece, diciamo, riusciremo collettivamente ad avere la forza, di portarle come un'evidenza, ecco, nel discorso politico che non deve più e non può più essere ignorato.